Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Una leggiadra fanciulla che appoggia il piede sul sedile di fronte mi farebbe subito inorridire, direi subito tolga quel piede, non sopporto i piedi appoggiati sul sedile, perché penso poi su quel sedile magari ci appoggio il sedere io dove ci ha appoggiato il piede qualcun altro. Ma questa volta gliela lascio passare, perché il piede, corredato di una gamba graziosissima, è ingabbiato in un gambaletto di gesso, quindi capisco che ha avuto dei problemi. Ma la tornitura delle sue caviglie e la grazia nel rimanere seduta e guardarmi come se dovesse scusarsi mi fa pensare che si tratti di una ballerina zoppata, che mi sembra che faccia coppia perfetta con un parlatore alla radio con la voce che va e viene, e quindi la sento sorella di sventura e non posso fare a meno di parlarle. Tu nella vita che fai? Io insegno. Cosa? Ginnastica. Gina, tu pensa che ti viene l'artrite e non puoi muovere le giunture, che fai? Sinceramente parlando, da poco ho avuto un incidente, quindi sono stata ferma per un bel po' di tempo, uno si abitua. Incidente dove? Al lavoro. No, ma in che tipo della parte, quale parte del corpo? Ah, ho rotto il piede. Quindi pensa, tu fai, come fai, ginnastica, movimenti ginnici, artistiche, balli pure? Sì, anche. Pensa, una danzatrice con un piede rotto, ti rendi conto? È come un conduttore radiofonico senza voce, è terribile. Esattamente. E quanto sei stata degente? Siamo stati fermi un mese e ancora stiamo facendo riabilitazione. Perché parli come il Papa al plurale? Che stiamo facendo io e la mia insegnante. Anche lei si è fatta male, tutte e due insieme? Già. Insieme? Sì. E ma che stavate, il motorino? No, stavamo al lavoro, siamo scivolate. Abbracciate eravate? Sì. Ma siete una coppia, no, per capire? No. Vabbè, state così abbracciate e siete scivolate, come mai? Perché stavamo facendo un esercizio e quindi ballando siamo scivolate. Ballavate in coppia, in coppia due donne? Sì. E che ballo era? È una cosa un po' particolare, facciamo danza sperimentale, quindi... Era una cosa, un passo difficile, particolare? Era un salto, sì, quindi era un salto un po' difficile, poi ovviamente la palestra non ci ha aiutato. Cioè saltavate in coppia, una di fronte all'altra, com'era il passo? No, mi interessa, sono curioso di sapere questo tracollo di due donne schiantate insieme. Beh, guarda, non ti credo, era una cosa abbastanza comica, più... Vabbè, sì, un tracollo, diciamo. E l'altra che si è rotta? Che si è rotta l'altra? No, l'altra non si è rotta niente, l'altra è solo una storta. Ma lei si sente in colpa che ti ha schiantato il piede, te lo dice, scusa, non l'ho fatto apposta? No, ancora ne ridiamo sopra. Beh, allora vedi, non è una cosa tragica, dai. Ma tu adesso nemmeno fai lezione, cosa fai? Vai in palestra, stai seduta su una sedia a rotelle, come funziona? Sto seduta su una sedia e faccio lezione a voce, quindi sì, diciamo che io uso la voce che non hai tu. Quindi tu fai lezione, però non puoi far vedere agli allievi quello che fai? Esatto, quindi glielo devo far immaginare. Questo per quanto durerà? Ancora per poco, spero. Questo ha compromesso anche la tua vita privata, naturalmente, questo incidente. Ovvio, non sono più uscita di casa per un sacco di tempo, la sera. Quindi niente amici, a meno che non venivano loro a casa. Vabbè, una buona occasione per invitare gente a casa, no? Sì, però essere intestate con il piede, far venire le persone a casa, diventava anche scomodo. Ah, quindi sei tutta ingessata? Sei ingessata fino a dove? Fino al ginocchio? No, alla caviglia. Vabbè, uno stivaletto, dai, può essere anche interessante, no? Sì, infatti stavo giusto pensando di farmi indossare anche l'altro, così andavamo pari e patta. Vabbè, quando toglierai il gesso, come cambierà la tua vita? Riprenderai ciò che hai interrotto? Immediatamente, la prima cosa si riprende la macchina. Ah già, non guidi nemmeno? Nemmeno guidi? No, sfortunatamente no, quindi ci facciamo accompagnare sempre da mamma, da tutte le parti, faccio accompagnare da mamma. Da mamma? Quanti anni hai? 30 anni. Vabbè, ancora la mamma che ti accompagna 30 anni. Ho capito, non posso evitare, come faccio? E non c'è un uomo che ti può accompagnare? No, non ce l'ho un uomo che mi può accompagnare. Vabbè, una vita triste però, scusa. Una povera insegnante di danza, la cui insegnante la schianta e in più non c'è nemmeno un uomo che l'accompagna. Esatto, e perché no? E perché non ce l'hai? Perché evidentemente ancora non ho trovato l'uomo che può accompagnarmi dove ho bisogno. Beh, non saranno posti pericolosissimi, perché normalmente basta chiedere, si trova. Sono posti veramente pericolosi, mi sono rotto un piede in uno di questi posti. Vabbè, se c'è un insegnante crudele che non vuole che ti si avvicinino uomini, non lo so, forse è questo. No, diciamo, dai, no, non l'ho trovato, non è ancora il momento per trovare un uomo. Ti vuole tutta per sé, non lo so qual è il problema. Perché non è insegnante. Non lo so, può essere, no? Può darsi, magari sono un po' geloso. Ah, è un uomo, eh? Sì. Fino adesso mi hai fatto pensare che fosse una donna. Lo so, forse un po' mi vergogno di questa cosa. Ah, beh, allora c'è una storia, hai una storia col tuo insegnante, dillo. No, no, assolutamente no. Adesso capisco. Il mio insegnante è molto più grande di me. Quanti anni ha? Nacque 55. Vabbè, nometto, ci credo che sei schiantato. Tu vai a fare i salti arditi con un umarell, è chiaro che cade e ti fa male. Ma hai nascosto il lato pietoso di questa storia. Io pensavo già, non so, due donne, ma una cosa... Ma era pietoso nonostante tutto, sarebbe stato pietoso comunque. Cioè lui ha provato a fare il figo che faceva il saltino, e sei schiantato e ti ha rotto un piede, questa è la sincera verità. Ma il piede me ne sarà rotto da sola, non è stato per forza... Scusa, ma lui era l'uomo, lui guidava il passo, sei caduto è colpa sua. Ma no, no, non è proprio così. A 60 anni questo fa i salti, il passo doble, è chiaro. Perché non si arrende, ovviamente. Ma tu perché lo giustifichi? Ancora balla, ancora... Perché sì, perché lo giustifico, perché è anche lui legato da una passione comune. E qual è? Il tango? No, non è il tango, è sempre la ginnastica. La ginnastica? Sì, ma a 60 anni uno si dà una calmata, però vedi... Cioè tu sembra quasi, guarda, adesso voglio capire bene questa storia. Tu lo giustifichi, ti fa tenerezza, invece essere arrabbiata con sto poveretto che ti ha schiantato il piede perché non era all'altezza, è chiaro è colpa sua. Ma sono cose che capitano, non è chiaro per forza che è colpa sua. Il treno va. Adesso che so che un uomo, capisco, è l'uomo che conduce di solito in queste cose la donna, ti avrà sollevato, non gli ha retto la canna e si è schiantato, è chiaro. No, no, dai. Diciamo che mi sono schiantata da sola perché lo giustifichi. Perché non sono un fenomeno come pensavo di essere. Allora si vede che ne sei segretamente innamorata e lo giustifichi. Ma assolutamente no, non esiste. Beh, invece di essere arrabbiata. Pensavo di essere innamorata di un'altra persona, magari uno di una mia età o un coetaneo. Ma non di un cinquantenne che si schianta, come dici tu. Sempre un ballerino? No, no, è meglio evitare di trovarli nella stessa. E cosa faceva questo uomo di cui volevi innamorarti? Che faceva? Questo uomo probabilmente è una persona che si trova la fortuna da solo, o anche libero professionista. E perché non è andata come tu volevi? Perché non avevamo la stessa idea di relazione, perché probabilmente lui non provava per me lo stesso che io provavo per lui. Cioè tu volevi che ti sposasse, andasse a vivere con te e lui voleva darti una botta ogni tanto quando gli capitava. Esatto. Vabbè, la vita va così. Però sai, anche quello è un gesto d'amore, è un complemento piacevole nella giornata triste di un uomo molto indaffarato per il lavoro. E poi uno forse non era così indaffarato come dici tu. Non è detto che non ti amasse. Era solo... No, credo... È complicato, l'ho sempre visto in maniera complicata. Ma complicato che vuol dire? Scusa, invece molto lineare, molto lineare. Ti vuole trombare? Ma no, trombare è un termine, se vogliamo usarlo, perché fa ridere, ma lui semplicemente nella sua vita, che era organizzata su obiettivi ben precisi, che era il lavoro, la realizzazione, c'era anche spazio per avere una relazione con una donna. nei momenti in cui voleva chiudere la valvola del lavoro e dedicarsi a se stesso, aveva te. Per lui questo era l'amore. Non è una cosa che lo compenetrava un istante della vita, non poteva condividere tutto con te. Te volevi invece un fulcro. E infatti ha deciso di condividerlo con un'altra donna. Ah, si è messo con un'altra? Certo. Proprio fidanzato, insieme, sposati? Esatto. Ah, no, sposati no, insieme sì. Proprio fidanzati veri che escono sempre? Sì, sì. Quelli con le foto insieme, quelli con i viaggi insieme. Tutti gli amici sanno che stanno assieme? Quelli con gli amici che sanno che stanno assieme. Quanto sono carini, beati loro, si amano. Beati loro, guardali. La mattina si svegliano, si mandano i cuoricini con i gattini su WhatsApp. A meno che non si sveglino direttamente nello stesso letto. Sempre, ma allora convivono? Non lo so, sai? Perché non lo so. Ho smesso di informarmi poi. Fino a quando ti sei informata? Fino a qualche mese fa. E sapevi tutto, sì? Fino a qualche mese fa, sì, perché me lo raccontava lui. A lui ti diceva sto con un'altra? Certo. Tu facevi tutta la sciolta? Ah, sì, davvero? Ah, spero che tu stia bene, così? Sì, sì. E quindi lo spudoratamente per mesi. Quindi il vostro rapporto era, diciamo, improntato su una sana tromba amicizia e non doveva dare nulla di più? Il nostro rapporto è stato improntato sulla tromba amicizia per tanti anni e poi lui si è fidanzato e abbiamo smesso di essere tromba amici, siamo rimasti solo amici, la parola, vogliamo metterla così. La parola ti amo fra voi è mai scivolata? Sì, ma solo da parte mia. Cioè lui non ti ha mai detto ti amo, ti voglio bene? No, ti voglio bene sì. Beh, ti voglio bene, io lo dico anche al mio gattino, che vuol dire ti voglio bene? E anch'io lo dico al mio gattino, lo dico alle mie alunne, lo dico ai miei parenti. Ma ti amo no, ti amo no. Ti amo no, non lo dico a tutti, infatti. Ma tu gli hai chiesto, ma tu mi ami, gliel'hai chiesto? Sì, ma lui mi ha risposto apertamente che no. La cosa non era, come si dice. E allora cosa che ti aspettavi? Una persona sincera, te l'ha detto. Perché continuavi sì, a sperare? Sono contenta. Cioè uno se non si innamora nei primi 10 minuti non si innamora più, questo dovresti capirlo. Cioè un uomo lo vedi perché? Subito. Non è vero. Ma che figurati, verissimo. Un uomo non rimane vero, fulminato subito. È una persona subito. Nuova. È nuova. L'uomo, la donna no. Ma tu non eri nuova per lui, ormai eri anche scontata. È vero, però sono mutate tante cose negli anni, sono cambiata io, è cambiato lui. Se all'inizio poteva bastarmi avere una relazione così senza né capo né coda, e negli anni ho cominciato a pensare che forse meritavo qualcosa di più, come svegliarmi la mattina e mandarmi i gattini e i cuoricini su WhatsApp, o come fare un viaggio con lui, o anche... Perché nemmeno un viaggio potevi fare, scusa, chi ti impediva? Lui lo impediva. Ma proprio non c'aveva voglia, perché era sposato, fidanzato, cos'era? No, ai tempi... Era libero. Usciva con gli amici perché eravamo più giovani, quindi... Vabbè, non poteva fare un viaggio? Io glielo lasciavo fare. Vabbè, uscire con gli amici, certo glielo lasciavi fare. E tu potevi uscire con le amiche, penso, no? Certo, mi sono relegata in casa. Non capisco la tua aspettativa. Scusa, era un bel rapporto simpatico di due che stanno bene assieme, stanno simpatici e ogni tanto si vedono. Ho dovuto rovinare tutto con l'amore. No, ma se ti mancava il viaggio assieme, perché non facevate un viaggio assieme? Perché non andava a lui? Non andava a lui, sì. Vabbè, ma allora... Ma nemmeno io forse gliel'ho chiesto mai. Ma per te cercavi una relazione, lui c'era una bella amichetta simpatica che usciva ogni tanto. Cioè, esiste questo, eh. Se è reciproco è una cosa normale, non vedo perché. Tu in realtà dovevi essere subito sincera con lui, dire guarda io voglio un fidanzato, non voglio un amico. Se glielo dicevi subito, lui magari si tirava indietro. Ma all'inizio non lo volevo il fidanzato. È come, diciamo, tu fai un contratto con una persona, perché in fondo quando due cominciano a trombare ogni tanto è un contratto non scritto, ma è logico. Sei tu che hai cambiato le regole del contratto in corso d'opera. Tu devi dire, guarda, fermi tutti, azzeriamo, non siamo più tromba amici, da oggi siamo fidanzati, ti va bene? E lui dice, no, manco per il piffero, ciao, e finiva lì. Lui è rimasto nell'illusione che tu da tanto che ti ha raccontato pure che sei fidanzato, come si dice una tromba amica. Uno la tromba amica racconta tutte le cose sue, tanto che sì, però questo fatto del contratto lo puoi vedere anche nella vita reale. Comunque se stai per tanti anni un lavoro poi potresti pretendere comunque un aumento. Beh, tu puoi chiedersi un aumento. E lo devi chiedere, però non puoi pretendere che la gente ti dia un aumento così, perché sei carina. Uno fa sempre finta di niente. Finché ti sta bene a te, sta bene a tutti, scusa. E il datore di però lavoro non è che ti... non è che l'ho costretto. Semplicemente abbiamo cambiato il contratto. Io ho proposto questo cambiamento di contratto che lui non ha accettato. Beh, ci sta. E io semplicemente, come un capo bastardo, ho strappato il contratto. Bastardo. Pensavo di fare la cosa più... giusta. Beh, in realtà, ma io ero il capo bastardo in questo caso, visto che sì, ma adesso guarda, te lo dico, voi tenere romantiche ragazze, tanta è la vostra smania di riuscire ad avere un uomo per la vita, che accettate contro la vostra natura il rapporto della tromba amicizia, vi sta un po' stretto perché a voi non vi sta bene, tutto sommato non vi va, voi dite ma tanto cambierà, intanto stiamo assieme, intanto lo vedo, pur di vederlo mi sta bene anche questa cosa, faccio la sciolta, faccio finta che non mi importa delle altre, e faccio finta che siamo liberi e sciolti, faccio finta che anche a me non interessa nulla. In realtà coltivate un amore, ma da sole, in solitudine, senza dire niente a nessuno. Coltivate, sì, ma un amore impossibile, come l'amore per gli aviatori delle ragazze del tempo di Liala. Sono amori inesistenti. Quando andate poi al dunque, che non ce la fate più, dite guarda ma io voglio qualcosa in più, e poi cadete dal pero come se fosse qualcosa, ma è normale, perché un uomo dovrebbe impegnarsi. Ma non è così tanto normale. Ma sì, perché è normale, per l'uomo, l'uomo c'è una donna che accetta di essergli amica, di uscire con lui, di far l'amore quando gli va, fine, perché dovrebbe chiedere di più, perché dovrebbe andarsi a invischiare? Che dovrebbe... Ma allora perché sei andato a mischiare con un'altra persona? Perché... Evidentemente ero la persona che era sbagliata, quindi ero io che ero sbagliata. Perché non va... è quello quella... che gli chiedevo. Perché quella gli va bene e tu non gli andavi bene. Sai, noi agiamo, è una chimica. Sono delle persone per cui facciamo delle cose contro ogni nostra convinzione. Ci innamoriamo, le sposiamo, ci passiamo la vita assieme. E poi magari col tempo ci guardiamo allo specchio e diciamo chi me l'ha fatto fare. Però lo facciamo. Altre persone con cui non lo faremmo mai, e sono occasioni, quella è stata più brava, più intelligente, più sveglia, era il tipo giusto. Sì. Probabile che era il tipo giusto, esattamente. L'ha improntato, ha improntato subito il rapporto. Quello che gli capita, scusami, però se a quei tempi, se tanti anni fa a me quella situazione andava bene e poi nel frattempo è mutata perché sono mutata anche io, credo che sia anche... la vita che è così. Senti, ti rivelo una verità che probabilmente tu non conosci. Al mondo ci stanno un sacco di persone, non è che adesso devi fissare con quel coglione lì, scusami, mo basta, sei stata amica tanti anni, mo c'è una fidanzata, trovatene un altro, qual è il problema? Anche lui ma penserà... Ma non c'è nessun problema, adesso ne troviamo immediatamente un altro. Beh, immediatamente. Immediatamente quando sarà il tempo giusto. Sono passati mesi, la vedo un po' difficile, Ma non è facile nemmeno trovare una persona giusta, non mi posso accontentare del primo che capita. Ma adesso rischi di fare l'errore opposto, se mi permetto, scusa, visto che abbiamo cominciato a parlare del mio mal di gola. L'errore opposto è che tu adesso diventi iperselettiva e finché non trovi quello che pensi che sia giusto, ti ritrovi a 60 anni che ancora stai cercando. Buttati. Probabilmente era iperselettiva anche prima e a 60 anni ancora non troverò la persona. Ma giusta, ma lascia perdere l'idea di trovare una persona. Affidati un attimo all'azzardo, prova un po' di persone, ne provi un po' e vedi, alla fine troverai quella che ti piace starci. Senti, la mia stazione è arrivata, io devo scendere. Ti auguro di trovare la persona giusta. Al prossimo incontro, ciao. Ciao. Il treno va. Vedere un metallaro con il capello che comincia a virare sul grigio fa una certa tenerezza. È chiaro che l'aderire nelle posture, nella foggia dei vestiti, nel modo di porsi, alle fogge estreme giovanilistiche, ha il grosso limite che quando si invecchia non si può più fare. Ma questo signore sembra riuscire a conciliare abbastanza bene una vita sociale e il fatto di poter conservare un'anima metallara. Ma non è un po' fuori del tempo andare in giro vestiti da metallari ancora 40 anni più o meno? Quanti ne hai? 41. E ancora ti vesti come i ragazzini, quelli lì che si mettono... Diciamo che mi sono un attimo, tra virgolette possiamo dire in borghese, è ovvio che non giro più col chiodo, le unghie pitturate, quelle cose lì ovviamente, però diciamo nell'animo e anche un po' esteticamente sono rimasto comunque un metallaro. La maggior parte dei tatuaggi non si vedono allora? No, dipende se ho le maglie a maniche lunghe o maniche corte. perché le ho anche sugli avambracci, dunque sono abbastanza visibili, soprattutto d'estate, in primavera, diciamo. Vabbè, fa parte di un passato quello. No, no, questi sono abbastanza recenti, perché mi sono tatuato da grande, avevo 37 anni il primo tatuaggio. È una scelta di vita che dura per tutta la vita, quindi, l'essere metallari, alla fine. Sì, secondo me sì, io ho proprio il metallo nelle vene, proprio me lo sento scorrere dentro. Io vabbè, dipende ancora... che ci sei messo nelle vene, non lo so. No, solo il metallo di musica, solo quello. No, la musica. Vabbè, questo ti permette di avere una vita vicina alla normalità, oppure vivi con i cani, sotto i ponti, queste cose qua, cosa fai? No, no, ho una vita anche, diciamo, abbastanza normale, cioè ho la mia compagna, vivo nel mio appartamentino senza tanti grilli per la testa, però quando ho bisogno di rilassarmi o quando ho bisogno di sfogarmi o quando ho bisogno di caricarmi, cioè quando qualsiasi necessità io abbia, devo mettere a palla, non so, gli arrumetti metallica, in Sepoltura. Parte il metallo, ma i vicini di casa cosa dicono? Accettano un metallaro in casa, sì? Sì, diciamo che ho un bellissimo rapporto dei vicini e sopportano che ogni tanto dispari qualche decibel un po' troppo alto nelle casse, allora non dispiace, diciamo. Sentire in cuffia non è la stessa cosa, vero? No, non ha senso, devi essere libero, perché se vuoi, mi piace anche muovermi quando l'ascolto, devo essere un po' libero, con le cuffie mi tocca sentirlo seduto. E quando ascolti la musica a casa ti metti tutta la divisa oppure no? No, solitamente sono in tuta o in mutande, dunque non è che ci sia una gran divisa come abbigliamento, sono abbastanza casual e informale su quel punto, da quel punto di vista. Quindi, diciamo, metallaro nell'anima, musica metallara, però in un appartamento normale, tu si fa la vita di coppia, con le pantofole, vestito da Omarell dentro casa, così? Esattamente, diciamo che dentro casa sono come tutti gli altri, sono anche un po' banalotto, se vogliamo dire. Vabbè, che vuol dire? È dentro che mi sento così. La tua compagna anche lei è metallara, sì, immagino. Non come me, naturalmente, lei ascolta un po' più musica elettronica, un po' più anni 80-90, è legata a quel tipo di musica lì. Quindi nemmeno un bullone, un piercing, niente? No, lei, vabbè, è tatuata anche lei, naturalmente. Sì, beh, quello è chiaro. Quello sicuramente. E sono riuscito all'età di 40 anni a trascinarla a vedere gli Iron Maiden per la sua prima volta, e per me è stata una gioia incontenibile. Che era contenta, sarà divertita. Sì, si è divertita, stranamente, non mi aspettavo, ma mi sono proprio divertita tanto. Ma se avrete mai un bambino, lo metallizzate subito, cioè lo tatuate? Forse per me sì, poi vabbè, il tatuaggio, quelle saranno scelte sue, perché appunto, come diceva lei, durano tutta una vita, dunque ci devi pensare bene, tant'è vero che non l'ho fatto a 18, ma l'ho fatto a 36, quando insomma un po' di testa in più ce l'avevo, dunque è una cosa un po' più consapevole, più che una cosa dettata dalla pancia, quella del tatuarsi. Beh, all'inizio si incollano magari, quelli finti. Beh, quella è proprio una tamarrata. Sì, molto tamarro, sì, molto. Me. Anche quello fatto con l'enne è proprio una cosa... Oh, sì, terribile. Perché il tatuaggio deve essere sofferenza, sennò che senso c'ha? Ma più che sì, è un po' sofferenza, non è che sia faccia così male, più che altro è un fastidio mentre te lo fanno. Però sai che questo fastidio ti porterà a una cosa che sarà tua e anche per gli altri per tutta la tua vita. Senti, tu hai un lavoro? Sì, sono un piccolo imprenditore. Ah, quindi un imprenditore metallaro proprio. Esattamente, sono un piccolo imprenditore, però sono anche sul campo, visto che comunque vado direttamente io dai miei clienti, insieme naturalmente anche ai miei soci, però siamo tre piccoli soci che ci sono messi insieme, sono un piccolo imprenditore, mi piace definirmi un imprenditore metallaro, secondo me racchiude bene le mie due anime. Sì, però quando vai da un cliente devi un po' travestirti, sennò pensano che ne so, rimangono un po' male. Presentarti in divisa da metallaro da un cliente secondo me non funzionerebbe. Ma aspetta, la divisa adesso non è proprio da metallaro, però ho, come vedi, ho le sneakers, ho l'eschimo, ho i jeans strappati, dunque non è che mi preoccupo tanto dell'aspetto formale, sempre lindo e profumato, perché quello sicuramente, però nel vestire sono un po' così. E cosa vendi? Cosa vendite? Qual è? Io vendo caffè, vendo le cialde del caffè. Ah, le cialde, perfetto. Beh, oggi vado sia per uffici che da privati, e dunque vado anche in casa delle persone, diciamo, vestito che un po' così, che magari se mi vedessero per strada forse non mi degnerebbero di uno sguardo, però in tanti anni hanno cominciato a conoscermi, sanno che anche se mi resta un po' così, comunque l'animo del bravo ragazzo c'è. Beh, però hai usato una formula di vita secondo me funzionante, perché non hai rinnegato la tua radice esistenziale, culturale, i tuoi desideri, però ti sei incamminato in una vita che perlomeno sei autosufficiente. Fare i metallari può andare in giro a fare gli sbandati, c'ha poco senso. Continuare a farsi mantenere dai genitori, come fanno la maggior parte dei metallari fine età avanzata, ormai è qualcosa che appartiene a un passato, ti guarderebbero con commiserazione. Oggi equivale a quelli lì che continuano a mantenere i fantastici anni 60 nel cuore, ascoltano i Beatles, poi magari sono dei capitani d'industria, la stessa cosa. Più o meno sì, più o meno sì. Vai a qualche concerto, ma però che vuol dire? Sì. Se non lavorassi non te li potresti manco permettere, capito? Questo. No, a parte che secondo me il lavoro, indipendentemente che io sia metallaro o meno, se a 40 anni ti fai ancora mantenere, più che metallaro o no, sei un fallito. Ma però l'imprenditore metallaro è una scelta ardita, devo dire. Non ho rinnegato, diciamo la mia parte estetica, chiamiamola così. Non ho voluto rinnegarla del tutto, naturalmente l'ho adeguata, perché adesso il capello non è più lungo fino alle natiche, come ti ripeto, ho tolto qualche piercing ovviamente, ma quello l'ho tolto perché sono cresciuto. L'impiegato metallaro non potevi farlo, ti avrebbero detto il primo giorno venga decente in ufficio e non potevi. Può darsi. È sicuro, può darsi. Quindi l'unica via era quella dell'autonomia, quindi l'imprenditoria. Ci stiamo provando. Tra mille difficoltà, tra mille rullate di tamburo, fra mille riff, ci proviamo. Quindi ma tu suoni pure oppure soltanto ascolti? Quello è il mio grosso cruccio, io non ho mai imparato a suonare nulla, mi sono sempre limitato a guardare i miei amici che suonavano o ad ascoltare appunto i concerti, ma non ho mai... Che molti metallari nemmeno si sono posti il problema di saper suonare, però . Importante. Ma io invece ne conosco tanti che comunque strimpellano il basso, la chitarra, qualcosa, insomma si sono messi giù. Io da ragazzino preferivo correre dietro le sottane che imparare a suonare la chitarra. Ah, c'avevi questa debolezza? Eh sì. Ma un metallaro come si poneva? Se non erano persone del suo ambiente non lo calcolavano, no? Hai sofferto? Diciamo che da ragazzino la cerchia era quella, cioè comunque avendo 40 anni, io quando ero ragazzino, erano ancora gli anni 90, c'erano ancora queste compagnie molto allargate, c'era questa cosa di trovarsi sugli scalini di una chiesa in 20-30, diciamo che ascoltavano tutti la stessa musica, e lì buttavi l'amo e vedevi quale pesciolina avvoccava. Ma fuori del cerchio sacro però è difficile. Eri come, diciamo, uno straniero in terra selvaggia. Esattamente, diciamo che ho cominciato a uscire dal cerchio metal quando ho iniziato a fare l'università, che mi sono spostato e di conseguenza ho avuto altre conoscenze, altri giri, altre persone da Ma conoscere. La moglie dove l'hai trovata? Nel cerchio metal o fuori? No, la moglie sembra una cosa costruita, ma diciamo che io mi sono sposato quello che era il mio capo, perché lavoravo in una ditta, lei era la mia responsabile ed è scoccato l'amore. Ah, ecco come sei diventato imprenditore. Sei no, sposato quello è successo dopo. Quello è stato la mia scelta. Perché lei, poi la ditta è fallita quando l'ha sposata. Per un po' abbiamo continuato a lavorare lì, dopodiché abbiamo scelto altre strade, ci siamo staccati da questa ditta. Ma perché non tolleravano che un dirigente sposasse il dipendente metallaro? No, non tolleravamo noi la dirigenza in generale, era un po', cozzava un po' contro di noi. Insomma, ma continua a essere il tuo capo nella vita oppure no? No, adesso lei fa tutt'altro, abbiamo due lavori completamente separati, perché insomma mangiare in due nello stesso piatto, se poi il piatto si rompe si rimane senza entrambi. Allora abbiamo deciso di diversificare. Questa è una saggezza che veramente ti fa onore, è vero, è giusto. La ringrazio. Ognuno deve avere il suo piatto, sennò alla fine... Perché se si rompe uno poi almeno c'è l'altro. Vabbè, in bocca al lupo, ciao, a presto, al prossimo viaggio. Ciao, arrivederci. Ciao. Il treno va. Ed ecco, siamo arrivati all'audiolettera. Ancora una donna a scrivermi. Una donna che già premetto, visto che conosco il contenuto della lettera, dirà delle cose che faranno inorridire molte delle signore che ascoltano. E poi scriveranno lettere, e poi manderanno messaggi, e poi si indigneranno, e poi diranno: che immagine dai della donna? Io non do nessuna immagine. Io ascolto persone e lascio che le persone parlino. Caro Nicoletti, sono una donna di 46 anni, separata da 3. La fine del mio matrimonio è arrivata in modo del tutto inaspettato ed è stata segnata dal tradimento di mio marito, su cui ora non mi interessa dettagliarti, ma se vuoi farti un'idea di quello che ho provato, puoi immaginare una diga che crolla all'improvviso. E così a 43 anni mi sono dovuta rimboccare le maniche e reinventare la mia vita, per di più con un bambino da gestire da sola. Superate le prime inevitabili difficoltà e i momenti di solitudine, ho cercato di guardarmi intorno, ma senza troppa convinzione. Ho avuto un flirt con un collega e un altro uomo conosciuto in vacanza, ma nessuna delle due storie ha avuto un seguito. Ho capito ben presto di avere una scorza emotiva indurita dalla separazione. Poi ho ripreso in modo più deciso ad avere una vita sociale e con una mia amica separata come me, abbiamo cominciato a fare coppia e a frequentare un po' di locali nel fine settimana. Niente di particolarmente perverso, ma l'età degli avventori era sicuramente più bassa della nostra. E così mi sono ritrovata ad avere storie di sesso con ragazzi di 30 anni e anche molti di meno, a dire la verità. Per loro sono la classica MILF che a letto li sa far divertire molto più delle loro coetanee. Ed ecco il punto doloroso per chi ascolta e è trincerato dietro i suoi buoni principi imperturbabili e mutabili di due donne che hanno deciso a 40 anni di buttarsi nel fiume vorticoso e sensuale di quelle figure che oggi, con un termine approssimativo anche molto rozzo che viene dalle classificazioni dei siti porno, chiamano MILF. Le MILF in realtà sono quelle che una volta erano le donne nel fiorire dello splendore della loro maturità fisica, che diventano piacevole luogo di sperimentazione dei ludi amorosi per giovincelli, ma a loro volta si pasciano di carne giovane, ben consapevoli che ormai quella avvizzita sta alle loro spalle. Perché faccio questo? Prima di tutto perché mi piace fisicamente, non ho problemi ad ammetterlo. E poi perché penso di voler dimostrare qualcosa, anche se a distanza, al mio ex. Sì, sento che sotto sotto è come se volessi dimostrargli che lui di me come donna non ha capito niente. Vorrei dirgli, caro, ecco che cosa ti sei perso e guarda come mi apprezza e desidera uno che ha 20 anni meno di te. Ovviamente di questa mia passione nessuno è al corrente, salvo la mia amica e quelle poche persone che mi frequentano la sera. Non mi sento in colpa, mi occupo a tempo pieno di mio figlio e continuo a lavorare. Potrò anch'io divertirmi come preferisco? E poi c'è un'altra considerazione, che è quella che volevo condividere con te. Ora che guardo al mio passato coniugale, mi fa quasi rabbia verificare come io, per potermi vivere la mia sessualità e la mia femminilità, sia dovuta passare per una separazione così triste e traumatica. E mi spiace aver sprecato anni con mio marito in nome di un amore illusorio. E più passa il tempo, più vedo tante donne come me, che assaporano la loro libertà di donne dopo il divorzio. Perché dobbiamo aspettare le separazioni ai 40 anni per sentirci disinibite? Non è un po' assurdo, oltre che sbagliato? Mi fa una domanda da 100.000 dobloni. Perché noi diventiamo spudorati quando invecchiamo? Perché l'età adulta, l'età matura, ci porta alla spudoratezza che in realtà dovrebbe essere dei giovani? Dovrebbe essere delle persone senza regole, senza inibizioni, senza esperienza. Perché proprio così? Perché passa il tempo e ci si accorge che in fondo la libertà delle proprie azioni è un patrimonio da conquistare. E si conquista solo attraverso battaglie dolorose. Lei ha conquistato la sua frenesia di dispensatrice di piaceri sulle ceneri di un matrimonio, sulle ceneri di un amore avvizzito, e oggi gode questa euforia e se la godrà fino in fondo, se la godrà finché i ragazzi le daranno modo di illudersi che possa essere la loro amante splendida e perenne.